1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Avanti, cari italiani, alle 7:18 minuti, l'alba della 72esima settimana decisiva per la riforma elettorale, chissà. E decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E voi che state facendo? Siete già pronti a, in pista, come si suol dire, per la vostra giornata di lunedì, decisiva per qualcosa anche per voi, sono certo. Allora, intanto qui alle 7:18 minuti vi ricordo che parleremo fino alle 9. Parleremo di che cosa? Beh, avremo ospite quell'imprenditrice americana che vive a Londra, Alison Dayton, e che voleva investire in Puglia e che invece non ce l'ha fatta e accusa un po' la burocrazia italiana a dire non volete gli investimenti. Avremo ospite con lei anche la vicepresidente della Regione Puglia e poi torna alle 8:15 il graditissimo ritorno di lui, Alberto Forchielli. Sarà ai nostri microfoni per commentare dal suo, col suo modo urticante come va l'Italia. Alberto Forchielli dalle 8:15, questo è quello che ci propone il menù degli ospiti, ora andiamo a leggere i giornali. Questo lunedì 15 settembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore ha un dato iniziale nel titolo di prima pagina che è questo: risparmi, consumi, redditi, gli anni persi con la crisi, produzione ai livelli del 1986, l'edilizia torna al 1967. Sono sciorinati dei dati che fanno davvero impressione, tra poco li vedremo. Per Repubblica, Renzi all'Unione Europea, basta diktat sulle riforme, decidiamo noi, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Messaggero ha una notizia che viene messa in prima pagina che riguarda l'IVA, aumento IVA, pressing dell'Unione Europea. L'ipotesi è quella di rivedere al rialzo i beni con IVA agevolata del 4% e del 10%. Mentre l'attualità internazionale da cui partiremo nella lettura degli articoli tra poco è l'apertura del Corriere della Sera, fermeremo l'ISIS, sono mostri, così il premier britannico David Cameron. Italia gole a caccia degli italiani, li rapiscono perché paghiamo. Questo invece è il titolo di apertura del giornale. Mentre la stampa, i magistrati e i politici allo scontro sulle ferie, il tema soprattutto della scorsa settimana, tra poco lo vedremo, ma come detto vogliamo partire da quella che è la nuova lotta al terrorismo, una lotta asimmetrica dopo la decapitazione o l'uccisione del cittadino britannico David Haines, cooperante, 44 anni, dopo i due giornalisti americani è stato ucciso lui e David Cameron ha detto: queste persone non sono musulmani che agiscono in nome dell'Islam, sono dei mostri. E ha annunciato una lotta senza quartiere all'ISIS, questo almeno è il titolo di tutti i giornali, che però hanno soprattutto in Italia questo taglio nel racconto di quello che sta succedendo. È giusto o no trattare, è giusto o no pagare per gli ostaggi che sono in mano ai terroristi? Ebbene, il giornale mette proprio in prima pagina questo titolo: Italia gole a caccia di italiani, li rapiscono perché paghiamo. L'articolo di Gianmica Lessin racconta proprio come il destino di David Haines si sia incrociato con quello dell'italo-svizzero Federico Motka. Sono stati rapiti insieme, sono stati detenuti per tanti mesi insieme. L'esito però finale è che Federico Motka è stato rilasciato perché, nonostante le smentite da parte ovviamente delle autorità, sono stati sborsati 6 milioni di euro per pagare il riscatto e dunque si è salvato, mentre l'ostaggio inglese che era con lui è stato ucciso. Ovviamente tutto questo è un dibattito molto importante, anche perché ricordiamo che in questo momento in Siria ci sono due cooperanti, due giovani ragazze italiane che sono rapite, e soprattutto anche c'è una persona, padre Paolo Dall'Oglio, dico soprattutto perché lo si dava per morto mesi fa, e che oggi invece il Corriere della Sera, con una testimonianza di Lorenzo Cremonesi, dà per quasi certamente vivo. Ora va tutto preso ovviamente con estrema cautela, ma Lorenzo Cremonesi intervista a pagina 3 del Corriere della Sera un intellettuale siriano, Michel Kilo, che è un noto intellettuale di Damasco che dai primi anni 70 è una delle voci più forti delle opposizioni di sinistra alla dittatura siriana, e racconta: padre dall'olio è vivo ed è prigioniero con le due ragazze Vanessa Marzullo e Greta Ramelli. Originariamente venne rapito dai militanti del Harar al-Sham, letteralmente uomini liberi della grande Siria, racconta questo intellettuale. Questi però lo hanno poi consegnato ai capi dello Stato Islamico. Ovviamente Lorenzo Cremonesi chiede: sono notizie importanti e delicate, che fonti ha lei per dire queste cose? Non posso specificare, ma sono fonti attendibili. Ora Dall'Oglio si troverebbe in un carcere, i suoi carcerieri sarebbero jihadisti iracheni, meno affidabili dei precedenti, più pericolosi di quelli siriani di Raqqa, e con lui nella stessa cella potrebbero esserci anche le due italiane. Riguardo alle trattative, dice questa persona intervistata dal Corriere della Sera, prima c'erano, ma ora per Dall'Oglio, che è un carissimo amico, purtroppo la situazione si sta complicando, rischia molto più di prima. Non è più una questione di prezzo. La partecipazione militare italiana alla nuova coalizione guidata dagli americani contro lo Stato Islamico introduce l'elemento politico. Così racconta Michel Kilo, intellettuale di Damasco, a Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, a dire: padre Paolo Dall'Oglio è vivo e potrebbe essere prigioniero insieme alle due cooperanti. Ma tutti i giornali raccontano proprio questo taglio: riscatti, gli Stati Uniti contro Parigi per esempio, dicono pagare è un grave errore. Questa è la linea degli Stati Uniti, ma anche la linea della Gran Bretagna. Col terrore non si tratta, questo è il titolo anche del Secolo XIX, pagina 3, c'è il racconto di Barbara Schiavulli, l'analisi che parte proprio da questo dilemma: decidere di pagare un riscatto per salvare una persona, un giornalista, un operatore umanitario in zona di guerra, è sbagliato perché incoraggia altri rapimenti. Non farlo condanna a morte una persona. E sono morti sempre più atroci, tra l'altro. Allora ci si chiede quale sia la linea giusta. Ovviamente ognuno nel comodo della propria poltrona pensa di avere la soluzione ideale, quando invece una soluzione ideale non c'è. In ogni caso, i giornali raccontano anche con Carlo Bonini a pagina 2 e 3 di Repubblica come David Cameron, i britannici si giocano tanto, tantissimo in queste 7 giorni. E sapete che in questi 7 giorni, giovedì, c'è anche il referendum per l'indipendenza della Scozia, e chiaramente questo è un tema politico molto sentito in Gran Bretagna. Ovviamente anche quello che è successo in questo momento in Iraq, con un cittadino britannico ucciso e un altro minacciato di morte come il prossimo, è chiaro che David Cameron si gioca molto anche da questo punto di vista. Ed è cominciata, come racconta Carlo Bonini su Repubblica, la terza settimana d'agosto con l'infiltrazione del deserto di Raqqa, Siria nord-orientale del comando inglese del SAS. È arrivata una Scotland Yard, una squadra dell'FBI, c'è uno scambio continuo di informazioni tra la Human Intelligence e la Tech Intelligence, tra CIA, i servizi segreti britannici, tutte le altre intelligence europee, insomma fonti di intelligence alleate sono in questo momento nella più complessa operazione dall'eliminazione di Osama Bin Laden. Racconta dunque Repubblica che Londra ha già inviato le forze speciali in Siria, in questa corsa contro il tempo per cercare di liberare almeno la prossima persona indicata come vittima. Questo per quel che riguarda la lotta al terrorismo internazionale. Mentre, venendo all'Italia, che dire, prima della pubblicità mi ha colpito, due articoli mi hanno colpito. Il primo articolo è quello del Corriere della Sera, Felice Cavallaro racconta a pagina 19 questa storia: la chiesa della regione concessa per le nozze tra i nipoti dei capimafia. Il figlio di, la figlia di Filippo Guttadauro, gran capo di Brancaccio, e il nipote di Matteo Messina Denaro, il grande latitante capo della mafia, si sono sposati in una cappella, la Cappella Palatina, gioiello incastonato tra le meraviglie e le vergogne di Palazzo dei Normanni, racconta il Corriere della Sera. Ebbene, e la curia che ha in gestione questa cappella dice: non sapevamo nulla, pare siano arrivate anche la figlia del boss Matteo Messina Denaro, filtrano dettagli sulla presenza di parenti del super latitante. E che cosa dice, sentite, padre Polizzi? Non chiedo il certificato antimafia, non avevamo idea sull'identità dei parenti degli sposi. Insomma, la curia dice: non sapevamo. C'è anche la gestione della cappella a propria insaputa, a giornare la lista. Ma l'articolo che vince il premio oggi, Mani sul volante, l'articolo che ci fa pinzare della giornata è questo. Sulla Stampa racconta Carlo Bertini: cari italiani, sentite bene, sentite bene e tenete bene le mani strette sul volante, perché voi state per andare a lavorare. Ma sulla Stampa potete leggere questo titolo: Renzi ora vuole più ore per i parlamentari, giro di vite per i weekend lunghi, basta. Renzi vuole che in Parlamento si lavori anche lunedì e venerdì, niente meno. Il Parlamento deve lavorare anche lunedì e venerdì. Questa pare la prossima battaglia di Matteo Renzi, con una tanto di intervista a Daniela Santanchè, che dice: se un parlamentare dovesse stare a Roma da lunedì a venerdì, alcuni di noi non lo farebbero più. Non farebbero più i parlamentari. In alcuni casi potrebbe essere una fortuna, in altri casi potrebbe essere una sfortuna. Ma attenzione alla nuova battaglia: il Parlamento lavori anche lunedì e venerdì. Ma non era la battaglia che Grasso e Boldrini, a capo di Senato e Camera, avevano promesso di vincere il giorno in cui si sono insediati? Me lo ricordo, avevamo fatto questa intervista congiunta a Ballarò il primo giorno: lavoreremo anche lunedì e venerdì. Sono passate 72 settimane della nuova legislatura. Perché, come dice un simpatico concorrente, la carta costa. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua allora, cari ascoltatori. Oggi il Sole 24 Ore apre con dei dati economici relativi all'Italia davvero inquietanti, messi uno dopo l'altro, snocciolati, raccontano di una lunga recessione che sta attraversando il paese, ha portato indietro di anni la lancetta su molti fronti. Pensate, la produzione è tornata ai livelli del 1986, l'edilizia, uno dei comparti più colpiti, ha fatto una retromarcia di quasi mezzo secolo. Redditi, risparmi, consumi si sono tutti contratti. L'inflazione ad agosto, lo sappiamo, ha segnato il segno meno, come nel 1959 non succedeva da allora. Insomma, tutti i dettagli a pagina 2 e 3, il caso più eclatante è proprio quello dell'inflazione, ma come detto l'edilizia è ferma agli anni 60, al periodo di boom economico. Le auto, compriamo lo stesso numero di automobili di 35 anni fa. E ancora, tutti i dati ovviamente che sono calcolati dal Sole 24 Ore sono statistiche ufficiali, dopo aver esplorato per una decina di indicatori qual è la situazione attuale, a quale anno occorre riandare per incontrare un valore analogo. E come detto, sono dati abbastanza impietosi, soprattutto nell'edilizia, nel comparto delle immatricolazioni delle automobili, il reddito. Comunque, tutte le cifre le trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Nonostante ciò, Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera racconta il gradimento degli italiani nei confronti non tanto di Renzi in sé, ma quanto della squadra di governo. Il titolo è questo: sì degli italiani al premier decisionista, ma per i ministri il voto è insufficiente. Racconta Pagnoncelli che in questo sondaggio fatto per il Corriere della Sera gli italiani sembrano avere le idee molto chiare. Il governo attuale è composto da molti giovani ministri per il 66%, dunque due italiani su tre, rappresenta una positiva rottura col passato e la loro presenza serve a dare più energia all'azione dell'esecutivo. Però il 26% degli intervistati invece, con percentuali più elevate tra i ceti dirigenti e impiegatizi, si arriva al 30%, ritiene che Renzi disponga invece di una squadra debole, poco esperta, che rischia di concludere poco. Questo per quel che riguarda i ministri. E tra l'altro i voti positivi sono il 66% positivo per Alfano, al 55% per Lupi, il 38% invece di gradimento per Maria Elena Boschi, 36% per Poletti, il ministro del lavoro, 34% per Carlo Padoan di gradimento, mentre 33% indeciso e 33% contrario. Dunque gli italiani sul ministro dell'economia, secondo questo sondaggio del Corriere, si dividono proprio 30-30-30. Andrea Orlando, invece ministro della giustizia, ha un 34% di gradimento, il 49% non sa o non conosce, il 17% invece ai voti positivi, il 34 negativi e il 17% solamente positivi. Questo per quel che riguarda i ministri. No, devo dire che effettivamente ho letto i colori al contrario, quindi i voti positivi sono quelli blu sul Corriere della Sera, il 29% Alfano, mentre il 66% sono quelli negativi, il 26% positivi per Maria Elena Boschi, il 38% negativi e il 16% positivi per Poletti e il 36% invece negativi. Quindi sono un po' più impietosi, insomma, per quel che riguarda la squadra di governo, i giudizi degli italiani in questo sondaggio del Corriere della Sera. Come detto, i dati sono molto negativi, quelli che dà il Sole 24 Ore. Renzi dice però le riforme le decidiamo noi e non Bruxelles. C'è sempre quel tema che aleggia del possibile commissariamento dell'Europa. Renzi ancora reagisce. Domani alle 10.30 a Montecitorio racconterà il programma dei 1000 giorni alla Camera. Ebbene però, mentre tutti raccontano i giornali che ha passato una domenica nella sua casa a Pontassieve, il messaggio forte che vuol far uscire è proprio questo: le riforme le facciamo noi, non c'è bisogno del commissariamento della Troica. Dice ancora per esempio Renzi in questo retroscena di Francesco Bei su Repubblica, a pagina 10, abbiamo la forza politica per cambiare in Italia e cambiare in Europa, nessuno ci mette i piedi in testa. Questa è la linea di Renzi, che tra l'altro racconta ancora Repubblica, ora rafforza la sua squadra economica. Sulla politica industriale è già stato ingaggiato, diciamo, Marco Fortis, ruolo crescente invece per il bocconiano Tommaso Nannicini, che lavora sulla riforma del lavoro. Ma ci sono anche due donne, Carlotta De Franceschi, esperta soprattutto in misura finanziaria, e Veronica De Romanis, occhio attento sulla Germania. E poi Joram Gutgeld è dato sempre più come il sostituto di Cottarelli, Alessandro Santoro, che segue con il ministro Padoan la riforma del fisco. Altra new entry potrebbe essere il professor Roberto Perotti, uno dei principali esperti italiani di tagli e riorganizzazione della pubblica amministrazione. Questa è la squadra che Renzi vorrebbe con sé. Alcuni ci sono, altri devono sciogliere la riserva. È un Renzi che comunque dice: non mi faccio commissariare dall'Unione Europea. Questo è il titolo di pagina 7 della Stampa. È un governo però che sta pensando di mettere mano anche alle aliquote dell'IVA. Questo almeno è il titolo di prima pagina del Messaggero e Andrea Bassi lo racconta a pagina 5. Nel mirino ci sono che cosa? Le aliquote agevolate. Secondo il Messaggero, il Ministero dell'Economia sta valutando un ritocco del prelievo del 4% sui beni di prima necessità come il pane e il latte, ma ci sono anche libri, giornali e riviste, occhiali, lenti a contatto, riso, pane, frutta, verdura, mense aziendali e scolastiche. Insomma, l'Unione Europea, questo è sempre il punto di partenza, l'Unione Europea chiede all'Italia di rimettere di nuovo mano all'IVA dopo il doppio aumento dal 20 al 22% deciso dai governi Monti e Letta. Il tema è delicato, l'aliquota minima, quella del 4%, riguarda beni essenziali come il pane e la pasta, ma fonti del Ministero dell'Economia citate dal Messaggero dicono che aleggia nell'aria questa ipotesi. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, quella per esempio di continuare nella revisione di singole voci dell'imposta, come già stato fatto per i distributori automatici di alimenti la cui IVA è salita dal 4 al 10%. D'altronde, fa sapere il Messaggero, l'aliquota al 4% è un'eccezione che l'Europa ha concesso all'Italia, in quanto l'aliquota più bassa stabilita dalle regole europee è il 5%. Dunque, aumento dell'IVA? Lo chieda Mauro Meazza, che sa tutto. Mauro, buongiorno. Buongiorno, grazie. Beh, addirittura adesso da indagato, inquisito, arrestato a uno che sa tutto, mi sembra un salto eccessivo. Mi verrebbe da precisare, guarda, questa operazione di, come dire, restyling dei prodotti, delle aliquote IVA, è da un po' che gironzola, cioè almeno da un paio d'anni. L'idea è anche quella di spostare alcuni prodotti che stanno al 4 verso il 10 e così via. Poi si vedrà, insomma, perché ovviamente calcolare il gettito effettivo è un po' difficile, anche perché se guardi il Sole 24 Ore di oggi, dove abbiamo fatto il catalogo degli indicatori in retromarcia, e quindi appunto vedendo che i consumi tornano in giù, gli acquisti di case tornano in giù, insomma è tutto un ritorno al passato. Il rischio di abbattere ulteriormente i consumi. E non sai neanche quanto gettito potresti davvero incassare, insomma, alla fine del conto. E questo vedremo che cosa succederà. Certo, tra questo e la possibilità, l'eventualità di un ritocco delle detrazioni, insomma, diciamo che il panorama fiscale non è promettente in questo momento. Vedremo, speriamo di essere smentiti come sempre, caro Alessandro. Ovvio. Noi siamo qua, facciamo i conti col pallottoliere tutti e due oggi, quindi siamo, diciamo, sereni, molto sereni. Fanno i conti anche i comuni, hai visto che la spending review colpisce duramente gli stanziamenti ai comuni, lo racconta la classifica del Sole 24 Ore di oggi, con i comuni del nord, in particolare Lodi, Brescia, Lecco, Venezia, che hanno subito le riduzioni più consistenti. E poi ti voglio dire che questa è una settimana decisiva. Non è una settimana decisiva per quelle cose che dici tu, probabilmente non lo è neanche per i decreti attuativi sulla casa, di cui facciamo un catalogo dei decreti mancanti oggi a pagina 8 del Sole 24 Ore, ma per il 770. Vorrei che tu mi sottovalutassi il 770. No, assolutamente. Ecco, rispetto per il 770, caro Alessandro, perché il 770 entro il 19 settembre va presentato. Oggi ricordiamo nelle pagine di norme e tributi alcune avvertenze dell'ultimo momento. Ho messo la cravatta per il 770 oggi. Ci sei messo un po' in ordine, hai fatto molto bene. Ti ricordo tra l'altro che sul sito c'è sempre il nostro ebook sui principi contabili, un'altra cosa che merita rispetto e che tu invece un pochino sottovaluti, tu mi negligi il principio contabile, caro Alessandro. Ecco, e poi vabbè, insomma, i tuoi due eurini, stai attento a come li spendi. Oggi su Risparmio e Famiglia tutte le, diciamo, le vicende poco belle che possono capitare con i soldi, assegni scoperti, conversioni di carte di credito, eccetera. Ecco, come difendersi, una specie di manuale tascabile come spendere i miei due eurini, lo fa. Perché non li spenda qualcun altro, Alessandro. Questo è un po' il senso della pagina. Spendi, che abbiamo o fatto, me li prelevi, perché... o me li prelevi. Esattamente, e quindi vorremmo, come dire, che tu fossi sereno, tu fossi tranquillo e decidessi finalmente di spendere questi 2 euro, perché sinceramente è un anno che te li tieni lì e hai visto che sono persino diminuiti dei prezzi. A questo punto spendili, basta, facciamola finita. Seguirò questo consiglio. Va bene, tocca a me, è il mio momento, va bene. Complimenti per l'Inter, complimenti. Complimenti, caro Alessandro. Grazie, complimenti. Complimenti. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora l'altro tema sul quale si dibatte molto è quello dei tagli alla sanità, sui tagli alla sanità che sono previsti dal governo. C'è la rivolta di Lombardia e Veneto, questo è il titolo almeno del Corriere della Sera, l'asse tra le due regioni che evocano lo sciopero fiscale. Sono due regioni a guida leghista, in Lombardia Maroni, in Veneto Zaia, e Maroni dice: bene Zaia, anche noi siamo pronti. L'opposizione invece è divisa, strumento inutile, così lo definisce Caldoro a capo della campagna, mentre Vendola lo definisce demagogico. Ma certo, le regioni su questo magari si dividono, anche se sui tagli alla sanità sono abbastanza compatte a dire il proprio no sulla soluzione sciopero fiscale. Certamente si dividono. Dall'altra parte invece, dalla parte del centrodestra, c'è un Berlusconi che raccontano i giornali, e lo fa per esempio Paola Di Caro a pagina 11 del Corriere della Sera, un Berlusconi che in questo momento in cui le cose non vanno bene dal punto di vista dell'economia prepara una fase nuova. La fase nuova sarebbe questa: più distanza con Renzi. Nel giro ristretto del Cavaliere, racconta il Corriere, ormai ne parlano come di una nuova fase, diversa da quella che ha dominato gli ultimi mesi di legislatura col patto del Nazareno. Molto è cambiato da agosto a oggi, raccontano coloro che sono vicini a Berlusconi. L'ex premier non sta preparando agguati a Renzi, la sua intenzione resta quella di tener fede al patto delle riforme, ma la consapevolezza è che una stagione potrebbe essere agli sgoccioli. Complice infatti la situazione dell'economia che non migliora, segnali di difficoltà evidenti nell'agire di Renzi, dunque la convinzione che il voto anticipato in primavera non sia affatto un'ipotesi di scuola, ma uno scenario realistico, perché da giorni si profila questa ipotesi: voto nel 2015. E allora, in virtù di quell'ipotesi politica, Berlusconi è pronto in qualche modo non a violare il patto del Nazareno, ma a prendere sempre più distanza da Renzi. Intanto oggi cosa succederà in Parlamento? Lo so che ve lo state chiedendo tutti, per la votazione decisiva, così pare, per i due membri che mancano della Corte Costituzionale. Bocciato Catricalà, che si è sfilato. Ora il PD propone Violante, da Forza Italia propongono invece Donato Bruno. Saranno Violante e Bruno i due parlamentari. Violante in questo caso non so se è ancora parlamentare, non credo più, Donato Bruno invece sì, saranno loro a essere i due membri della Corte Costituzionale che mancano a essere eletti oggi al Parlamento? Lo so che è certamente il tema che spacca in due gli italiani di fronte alle proprie colazioni. La scuola invece, questo è un tema un po' più concreto che riguarda milioni di italiani. I miei due figli hanno già ripreso la settimana scorsa, ma molti oggi, molti studenti riprendono proprio oggi. State andando a scuola? Ovviamente un grosso in bocca al lupo, e lo so che mi state mandando a quel paese, cari studenti, perché volevate starmene in vacanza, ma esiste anche il periodo in cui si studia. E allora, la scuola al via. Oggi il ministro dell'istruzione Stefania Giannini fa un'intervista a Repubblica, intervistata da Corrado Zunino a pagina 23. Dice: ora cambiamo anche la maturità. Lo aveva annunciato al Sole 24 Ore, ma in questa intervista racconta un po' di dettagli in più. La proposta per la maturità nuova dalla stagione, non questa stagione, dal 2015-2016, tornare ai commissari interni, basta convocazioni da lontano, al limite un presidente di garanzia che non deve arrivare per forza da fuori provincia. Chiuderei anche l'esperienza della tesina di fine anno, un atto compilativo che è solo un fiore al bavero, una collanina graziosa. Gli studenti dovranno invece presentare un progetto che riguardi tutto l'anno trascorso, un lavoro più teorico per i licei e un prodotto finito per i tecnici. Ascolteremo i pareri in questi due mesi anche su questo argomento. Alla domanda: ascolterete anche i sindacati? Sì, non li escludiamo, ma non li riteniamo più interlocutori privilegiati. Con l'autunno le trattative partono. Questo è il punto centrale dell'intervista, cioè la nuova maturità dal 2015 al 2016. Basta commissari esterni, solo docenti interni. Questo per il ministro Giannini. Venendo allo sport, beh, intanto vi segnalo un articolo che mi ha inquietato molto. Andrea Pasqualetto, a pagina 21 del Corriere della Sera, riguarda il doping e Alex Schwarzer. Ricordate, il campione olimpico, poi bocciato dal doping. Nei racconti dei verbali di Caroline Kostner, la sua ex fidanzata, la pattinatrice, sentite come raccontava Caroline Kostner come dormivano. Lui di notte aveva un macchinario di colore bianco, elettrico, dal quale partiva un tubo flessibile collegato a una maschera facciale che metteva sul viso per l'intera durata della notte, e io ero costretta a mettermi i tappi alle orecchie dal rumore. Era la macchina per l'ossigeno con la quale Schwarzer dormiva, nel racconto di Caroline Kostner, quando non era in quota, e quindi insomma per simulare l'ossigeno ad alta quota. E questo è un racconto in verbale molto impressionante, a mio modo di vedere. Ovviamente i medici dicono: ma lei non ha mai avuto sospetti, siringhe non ne ho mai viste, ma io uscivo di casa per ore, andavo varie volte fuori casa. Però racconta Caroline Kostner che spesso si è arrabbiata perché Schwarzer, che doveva sempre dire all'antidoping dove dormiva per improvvisi controlli, spesso diceva che dormiva da una parte e invece era a casa di Caroline Kostner. Quando bussavano alla porta diceva: di che non ci sono. E su queste cose, dice Caroline Kostner, mi arrabbiavo moltissimo. È impressionante. Io, Alex Schwarzer, e il doping, dormiva con un macchinario. Bah. Vabbè, però, Inter 7 bello, Milan tacco 5, vale senza fine. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Il Milan in testa alla classifica, questa è l'unica cosa che conta. Ma vince la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, così lo diciamo anche al nostro amico e collega Massimo Bordin, che stravince Nino Materi sul giornale dalla A alla Z, il diario segreto dei papà delle mistrombate, il diario dalla A alla Z, dalla A di aiuto alla Z di zia, su Miss Italia. Che te pozzino via fuoco, ciao Milan.